È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. A mezzanotte va la ronda della Lega, ma la comunità gli frega assai la sfida. Caro Parenzo, eccoci in diretta dal Granducato di Toscana, finalmente, anzi Granducato di Siena, finalmente con un nuovo cellulare che si sente bene, chiaro, molto bene, forte. Sì. Per l'esattezza. Sono in un luogo e ti darò aggiornamenti nel corso della trasmissione. Si sta tenendo una conferenza stampa importante che sto seguendo qui da Siena. Bah, poi mi darai informazioni. Sì, sì, su dove mettere i bambini d'estate. È una conferenza stampa dove delle mamme si organizzano per fare i corsi estivi ai bambini e quindi ho deciso di venire qui per te a seguire questo grande evento. È un grande evento, eccezionale, di grande importanza. Temi da paese reale, altro che Bisignani. Altro che Bisignani, altro che Lega. Però il primo titolo non è su come i ragazzi, i bambini dovrebbero passare l'estate, ma è sulla grande farsa dei ministeri al nord. Beh, anche questo è un tema importante. Sono state sprecate parole, pontide, e poi è stato approvato alla fine una specie di ordine del giorno addirittura del Partito Democratico in cui questo trasferimento non c'è, con l'astensione del PDL e la Lega che non ha partecipato al voto. Ci saranno solamente le sedi di rappresentanza operativa. Ma insomma, di cosa abbiamo parlato per giorni interi, paginate di giornale, titoli, trasferimenti, raccolte di firme da una parte e dall'altra, per arrivare, come io ampiamente prevedevo e come noi ampiamente prevedevamo, al nulla più assoluto. Fai il tuo editoriale di oggi, caro Parenzo, su questo nulla assoluto. Cari amici, dopo giorni di discussioni, convegni, 50.000 persone convocate sul sacro prato di Pontida per chiedere il trasferimento dei ministeri al nord e poi si arriva a una soluzione come quella documentata oggi dal nostro grande Giuseppe Cruciani, ci sono solo quattro parole da dire, cari amici della Zanzara, quattro parole, andate tutti quanti a casa! E beh, uno la potrebbe prendere anche così, perché veramente questa storia è una farsa. Bossi a Pontida, sentitelo. Il mio ministero, quello di Calderoli, venga in Lombardia, comincia a venire in Lombardia, a Monza si parla. Poi il sindaco si è messo a disposizione, senza pagare, la sede, l'ex Villa Reale di Monza. Vorrebbe una camicia nera. E invece finisce come indica Cicchitto, sentiamo. Nel testo che abbiamo redatto si afferma che c'è una collocazione dei ministeri dove già stanno e poi c'è la possibilità, però la facoltà per essi di realizzare sedi decentrate di rappresentanza operativa. La ronda della Lega. E il bello è che ancora nel pomeriggio, quando nella notte già era stato raggiunto l'accordo tra la Lega e il PDL per questa sostanziale marcia indietro rispetto a Pontida, c'è chi parlava ancora del trasferimento dei ministeri. Lo stesso Bossi, per carità, lo stesso Bossi che magari aveva firmato l'accordo, ancora si parlava dei ministeri. Ministro, sui ministeri al nord? È una cosa che hanno già fatto in Inghilterra, in Francia, dovunque. È una cosa positiva, tanto non porta via niente. Ma quindi alla fine che succede? Nulla. Spostano delle sedi decentrate. Cosa? No, ma lo statista Cicchitto, in quella dichiarazione che è stato giustamente risentire, diceva si potranno aprire delle sedi decentrate di rappresentanza. Ma per rappresentare cosa? Cos'è che devi rappresentare? Non so, il Ministero dell'Economia rappresentato a nord da qualche ufficio, spese ulteriori, soldi, eccetera. Ecco, appunto, due parole, a casa! anzi, a casa subito. Tre parole, a casa subito. Sei caldo stasera, Berlusconi, non voglio fare il leader a vita, oggi. Voglio ribadire i miei sentimenti di amicizia e di stima nei confronti di Umberto Bossi e di tutti gli amici della Lega. Hanno provato in tutti i modi a dividerci, ma non ci sono riusciti e non ci riusciranno mai, sia chiaro. Non voglio rimanere per sempre a Palazzo Chigi o fare il leader a vita del centrodestra. Voglio però fortissimamente lasciare all'Italia, come mia eredità politica, un grande partito ispirato al Partito Popolare Europeo. E Bersani ieri, molto ironico, ultimamente, come fate a stare col miliardario? Non chiedo affatto, io non faccio, voglio fare nessuna alleanza con la Lega, le voglio solo dire, ma come fate a stare col miliardario? La camicia nera. Cosa già ripetuta nel passato. Direi di chiudere questa prima parte perché c'è un ospite che ci sta aspettando, caro Parenzo. Mo ragazzi, ma come fate a stare col miliardario, ragazzi? Va bene, andiamo avanti. Questa prima parte la chiudiamo con che cosa? Ah, con la storia della P4, la storia della P4. Ma cosa vuoi che sia? Ma sì. Un'inchiesta sul potere in Italia in cui c'è uno sputtanamento generale con diffusione di intercettazioni e reati vaghissimi come al solito, con un magistrato che scrive nero su bianco che esiste la macchina del fango, espressione giornalistica di cui non si ha conoscenza in carte processuali se non per bocca e per penna di un magistrato. E vabbè, andiamo avanti così con questo sputtanamento generale a mezzo stampa. No, è così, con un sindaco di Napoli, il quale ha promesso via la spazzatura entro 5 giorni, che dice Bisignani è il cuore del governo occulto. Senti. Luigi Bisignani, però, insieme ad altri, sia ben chiaro, è il cuore di quel governo occulto della cosa pubblica che da tempo rappresenta il cancro delle nostre istituzioni. De Magistris, bah. Beh, De Magistris adesso deve togliere la spazzatura da Napoli più che pensare alle inchieste giudiziarie. Più che pensare a Bisignani, certo. Però, certo. Al di là delle inchieste, al di là dei capi d'accusa formulati dal dottor Harry John Woodcock. Sì, tu sei sempre con lo stesso telefono comunque, non col BlackBerry. Comunque. Io non ammetto indagini su questo. Va bene, ho capito. Non ammetto indagini su questo. Ho capito. Ma al di là di quello che proveranno le accuse, proverà il processo. Sì, allora? Dico solo una cosa chiara e precisa ai tuoi ascoltatori, caro Cruciani. Cosa dici? Che comunque vada a fila, anche da budista giudiziario, la vicenda Bisignani segna tutta l'opacità del potere politico italiano. Ma che scoperta, che grande scoperta. Esistono le lobby, Dove sono i liberali? Fermati un attimo e cambia il telefono. Ferma e cambia il telefono. Leonardo Muraro, buonasera. Buonasera a tutti voi. Come sta il presidente della provincia di Treviso della Lega? Eccolo. Allora? Sta molto bene, sono a Bruxelles, lavoro per vedere di fare qualcosa per il mio territorio. Senta, signor Muraro, ma questa storia dei ministeri si è rivelata una farsa, cioè avete proclamato a Pontida con tanto di targa portiamo i ministeri in Lombardia, chissà perché non in Veneto, lei lo aveva chiesto, adesso tutto si riduce a un cambio di uffici o cose di questo tipo, ma di che stiamo parlando? Tutti sapevano che portare i ministeri con portafoglio bisogna modificare una legge, sicuramente, perché non provate a pensare anche alla provocazione di questa esternazione, di questa proposta fatta dal segretario federale? Sicuramente questa è un'ulteriore conferma di un governo, di una scelta anche fra alleati che di fatto mette in difficoltà quella che mette difficoltà. Di fatto anche un avanzamento propositivo in questa alleanza, un ulteriore ostativo che mette in difficoltà la nostra alleanza. Io capisco che è difficile spiegare una cosa di questo tipo, io non ho capito nulla, cioè io quello... Cristiano. strano anche lei. Ma scusi, lei è un leghista, Doc, io la conosco. Parli come parlano i leghisti, non come avanzamento progressivo. Cioè, qui abbiamo una cosa molto chiara. A Pontida avete detto i ministeri al nord, alcuni ministeri al nord, con tanto di targhe, eccetera. Oggi tutto si risolve nel fatto che i ministeri al nord non ci vanno, e io dico meno male, e al contrario c'è il distaccamento di uffici operativi. Lo vuole dire chiaramente Muraro che questa storia qua era una farsa? Chi ha sbagliato? La Lega a chiederli, quelli che non ve li vogliono dare, troppi compromessi? Lo dica chiaro, lei che è un leghista. Ma perché secondo lei è una farsa questa? Perché per quale motivo devono stare tutti a Roma? Mi spiegate un principio democratico per cui tutti i ministeri devono stare a Roma? Ho capito, ma alla fine non l'avete ottenuto. Non l'avete ottenuto, sì. Trasferiscono solo gli uffici forse. Alla fine che è successo? Prendiamo il Ministero del Lavoro. Dov'è che si lavora? Dov'è il mitico Nord-Est? Dov'è l'area più produttiva del paese? Ma non è che c'è bisogno di avere il Ministero? I nostri imprenditori devono perdere una giornata per andare al Ministero a lavorare, a fare delle informazioni? Esistono le mail oggi. Siamo il paese delle banane. Continueremo ad essere la Cenerentola d'Europa, che ci affiancheremo alla Grecia. Perché questa è la realtà. Però scusi Muraro, ma se la prenda anche con i suoi che non hanno ottenuto nulla, avete proclamato a Pontida, se mai queste cose fossero vere, quelle che lei dice, e fosse giusto trasferire qualche ministero al nord o in Veneto, in Lombardia, non lo so, prendetevela con i vostri che oggi hanno raggiunto un accordo per non far passare questa cosa, per far passare solo la storia degli uffici. O no? Sì, guardi, il ragionamento è un po' lungo. Sicuramente la proposta è una proposta che ha una sua strategia in un contesto. Credo che la parte più importante della richiesta di Domenica Pontida erano due: rivisitazione del patto di stabilità entro 30 giorni. Questa è la parte forte. Ho capito. I ministeri cos'era? La Camera e il Senato federale. Entro 15 giorni di decreto legislativo, entro 15 mesi l'approvazione di Ho capito, ma chi è che è sui ministeri? Vabbè, ma adesso io le sto chiedendo dei ministeri, però. I ministeri, perché non avete ottenuto nulla? Quello che avete detto a Pontida è svanito in un giorno, o no? Certo, questo è certo, adesso bisogna vedere, perché sicuramente avere anche gli uffici decentrati, secondo me, non è una priorità, per l'amore di Dio, non era una priorità. Non era una priorità. Vabbè. La notizia, Cruciani, proprio abbiamo il traffico, aspetta, c'è il traffico. Rossi nel nord Italia. Eccoci, caro Parenzo, 18:48 con Leonardo Muraro, presidente della provincia di Treviso. Insomma, Muraro ha vinto Alemanno alla fine, hanno vinto Alemanno e Polverini, Ma da noi si dice sempre che i morti si contano in ultima delle battaglie. Questa è una battaglia democratica che stiamo facendo per la nostra libertà, per il nostro federalismo. Sicuramente si è parlato da due giorni, si continuerà a parlare di questo problema, però la cosa importante di tutto il discorso che ha fatto il nostro capo Umberto Bossi era un'altra, vabbè, ho capito, era un'altra, vabbè. Cosa. Sicuramente anche su questo è una cosa importante, ci sarà qualche ufficio decentrato, ma è l'inizio di un percorso che in maniera democratica stiamo tentando di modernizzare questo paese, che non vuole cambiare. Muraro, scusi un attimo, chi è che non vuole cambiare? Berlusconi è bollito secondo lei? Beh, guardi, io ho appena concluso la campagna elettorale, non metto in discussione l'accordo col PDL, perché secondo me ci sono tante persone anche brave all'interno del PDL, però il premier secondo ha perso un grandissimo consenso nei cittadini, perlomeno nella mia provincia. L'unica critica che mi hanno fatto è proprio questa, di questa alleanza che ancora abbiamo col premier Berlusconi. Cioè è bollito, cioè, mi inteso come premier, come persona. Sì, ma cioè è bollito come premier? Cotto, bollito, cos'è? Come si può definire? Diciamo che forse sarebbe opportuno un rinnovamento, un passaggio di consegna, un passo indietro. Sarebbe sicuramente un consenso maggiore e una fiducia maggiore nei confronti dei cittadini italiani, che per amore di Dio ci sono varie linee di pensiero, ma il pensiero comune, quello che io sento in mezzo alla gente, è questo. Però scusi Muraro, Berlusconi oggi ha ribadito il mio patto con Bossi di ferro. Non voglio fare certo il leader a vita, non ci divideranno mai, eccetera eccetera. Pure questo bisogna considerare. Anche delle strategie. Noi sono tre anni che siamo al governo. Siamo al governo con un unico obiettivo, quello del federalismo. Mancano pochi passaggi per raggiungere questa trasformazione. E dopo Berlusconi può andare pure al diavolo? Ma dopo penso si potrebbe anche, sicuramente dopo si farà una riflessione, ma credo che sarà doverosa. Senta un attimo, allora, scusi, secondo lei perché Berlusconi dovrebbe darvi il federalismo se poi lo fottete? Cioè, detta proprio brutalmente, Berlusconi avrà interesse a tentennare, no? A portare avanti, a far sta tatanella. Adesso prima spostiamo un ufficio, poi spostiamo una targa al nord, patto di stabilità, sì, ma forse. Cioè, perché dovrebbe farsi cucinare da voi? Se a un certo punto quando gli date, lui vi dà il federalismo, voi lo mandate a casa, sarebbe sciocco? Berlusca non è sciocco, Muraro, no? Questo è vero, però dall'altra parte è anche vero che non possiamo soffermarsi sulla singola persona, sul singolo posto che occupa in questa persona. Io credo che dobbiamo guardare un po' più in là. Un po' più in là, questo paese non è più in grado di continuare con questi numeri, non è più in grado di continuare con questa politica. Abbiamo voi a bisogno lo farete che cadere, coloro che amano questo paese, che la nostra realtà, la nostra gente, devono guardare oltre il proprio naso e anche oltre la propria persona. Senta, a settembre lo farete cadere, mi dia retta. Comunque, vabbè, vedremo, vedremo. Senta, ma gli statali, lei perché volete sti ministeri? Poi alla fine gli statali voi non li sopportate, volete sempre meno statali, storicamente avete sempre voluto meno statali, o no? Beh, guardi, io ho appena fatto la riconferma per il mio secondo mandato. Il primo provvedimento è stato quello di riorganizzare la macchina amministrativa. Da 19 dirigenti ne ho confermato 13 e abbiamo fatto uno snellimento dovuto al momento che ci richiedono sacrifici. Gli statali sicuramente vanno ammodernati, ma credo che quando il ministro Zaia all'agricoltura ha iniziato il suo percorso in quel breve periodo che è stato, è riuscito ad ammodernare un ministero, renderlo più funzionale, per cui credo che i leghisti che hanno idee chiare potrebbero riuscire sicuramente a modernare anche i ministeri. Credo che Maroni lo abbia dimostrato. E che bisogna fare, scusi, per ammodernare? Farli alzare prima la mattina, farli lavorare di più? Che bisogna fare con questi statali? Ma credo che tante volte, guardi, le persone hanno bisogno di stimoli. L'importante è stimolarli, fargli capire che anche loro sono delle persone che devono guadagnarsi il pane quotidiano, per cui se hanno delle stimoli e vedono che il proprio capo, il referente, è una persona attiva, sicuramente si può portare, rendere più gradevole il lavoro e sicuramente stimolarli, motivarli. Senta, ma ha visto che sta succedendo a Napoli ancora con l'immondizia? Che si può fare secondo lei? Non c'è niente da fare, eh? Passano le amministrazioni, promesse, eccetera, non cambiano. De Magistri, vedremo cosa farà De Magistri, ha detto la settimana scorsa 5-6 giorni provvedo io. Ma è recuperabile? È recuperabile sta situazione a Napoli? Ma guardi, io sono 6 anni che governo la mia provincia, in 6 anni non abbiamo nessuna discarica e abbiamo raccolta differenziata al 70% e creiamo anche... E vabbè, allora a Napoli? A Napoli che farebbe lei? Napoli, credo che gli amministratori di Napoli devono gestire, è possibile gestire come si gestisce a Treviso il problema dei rifiuti. Andate a dare una mano giù, no? Mandi qualcuno dei suoi volontari verdi giù a Napoli, no? Leghisti a Napoli. Non è questione di volontari, è questione di professionisti che sappiano organizzare il lavoro e trovare delle persone che abbiano la capacità e la volontà di eseguire quelle che sono le direttive per riorganizzare il servizio. Scusi un attimo, Muraro, ma una curiosità. Ma alla fine questo cerchio magico di persone che sono intorno a Bossi, no? Non è un po' nefasto per la Lega? Questi qua no, che beh, insomma, cioè, non credo che Maroni sia nefasto. Maroni no, è Maroni, grande, Maroni mica appartiene, ministro. Non è che appartiene al cerchio magico, è fuori da questi consiglieri, da queste persone che stanno sempre intorno a Bossi. O no? Lei lo conosce il cerchio magico? Beh, li conosco perché bene o male vado anch'io a Milano qualche volta, ne parlo con i suoi collaboratori. Ma dire che adesso sono tutti negativi. Ricordiamo che però l'avanzamento che ha fatto la Lega negli ultimi anni, le strategie che ha fatto Bossi sono sempre state delle strategie positive. Provate a pensare anche un po' a ritroso quante volte è stato criticato per delle scelte che poi si sono dimostrate. Ma io non parlavo di Bossi, parlavo di quelli che erano intorno a lui. Quelli che stanno intorno. Vabbè. Ma Bossi è una persona intelligente, sicuramente sa attorniarsi di persone che, e sicuramente se sono cattivi consiglieri, sicuramente lui sa distinguere fra i buoni e i cattivi consiglieri. Va bene, c'è la pubblicità 800 24 00 24. A dopo la Zanzara. Siamo qui, caro Parenzo. Sì. Tutto bene? Tutto molto, molto bene. Aspetta che sto cercando di far ritornare mia figlia con Guerre Stellari. Va bene, ecco, Maristel Polanco, TG3. Buonasera a tutti. In questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire. Berlusconi al Senato, una crisi al buio sarebbe una sciagura. Entro luglio la riforma fiscale, nuova apertura ai centristi. Finocchiaro, il premier sembra un calabrone in un barattolo, resiste ma è sconfitto nel paese. Casini, ospite al TG3. I ministeri al nord, scontro in aula tra Fini e Cicchitto. Bossi, nessun passo indietro, ma la Camera vota lo stop chiesto dall'opposizione. Italia nel mirino, l'agenzia Fitch, se il governo cadesse voto invariato, se resta il rigore, l'antitrust, danni per lo stop alle liberalizzazioni. Trasmessi a Roma alcuni atti dell'inchiesta napoletana sulle attività della cosiddetta P4 e sul ruolo del lobbista Luigi Bisignani. Indagato per omicidio volontario Salvatore Parolisi, il marito di Melania Rea, la giovane mamma uccisa ad aprile in un bosco del Teramano. In migliaia in piazza Bologna, in piazza Maggiore per Roberto Benigni, affascinante con Dante, dissacrante con la politica e l'attualità. Forse a qualcuno è sfuggito, però l'altro giorno, l'altro ieri a Pontida, c'era un ministro degli interni, poi giudicate voi, alcuni giornali hanno sottolineato questa cosa, che ha invocato sostanzialmente la secessione. Roberto Maroni, al termine di un discorso, certamente di fronte alla gente sul pratone di Pontida, una situazione particolare, però ha fatto una sorta di appello alla Padania libera. Non è in realtà la prima volta. Qualcuno si è scandalizzato parlando di un ministro che invoca la secessione, oggi era in prima pagina per esempio sul Fatto, ma anche su altri giornali, e che doveva essere, secondo alcuni, adeguatamente sottolineato. Io vi voglio ringraziare davvero, alla faccia di tutti i gufi romani che dicevano a Pontida non verrà nessuno. Guardateli, inquadrateli, inquadrateli a questo popolo. È il popolo di Pontida, è il popolo della Lega. È un popolo di barbari, ma di barbari sognanti. Noi abbiamo un grande sogno, la Padania libera e indipendente. Viva la Lega! Domanda: è uno scandalo o no che il ministro degli interni di un paese invochi la Padania indipendente, seppur come sogno? Parenzo, ti scandalizzi? Assolutamente no, perché l'indipendenza della cosiddetta Padania, alla quale io sono contrario perché mi sembra una sciocchezza, ma voglio dire, fatta con un, se ci fosse la possibilità di farla con un referendum, cioè il tema dell'indipendenza non è un tema scabroso, non è un tema eversivo, è un tema politico, secondo me sciocco, ma è un tema politico. Dov'è l'eversione? L'eversione? Incriminate Maroni allora, cioè bisogna distinguere le cose sempre. Cosa ho capito, ma Maroni crede all'indipendenza della Padania oppure è solamente un'aspirazione, un sogno, ma può essere un sogno, un qualcosa di evocativo? Ma i partiti devono ancora far sognare, no? Devono portarti a un traguardo. Il Partito Comunista diceva il sol dell'avvenir, Berlusca diceva meno tasse e non ha fatto un tubo dal 1994, Rivoluzione Liberale e non ha fatto un tubo dal 1994, meno scandali, nessuna... Insomma, si può dire Maroni in questo caso, senza esagerare, ha detto qualcosa di... La domanda è: ha detto qualcosa di eversivo? Un po' risposta, come no. Boso, un po' come no, Boso. No, ma perché? Ieri da noi. Sentiamo. Abbiamo le truppe speciali in Italia, si mandano nella zona di mare, si va a guardare i barconi, una spoletta ogni barcone, gliela fondi, così non c'è più nessuno che viene verso di noi. Lei è sempre quello della teoria del ghiacciaio, no? Sempre il ghiacciaio, sempre. Cioè, una volta che però riescono ad arrivare, nonostante l'affondamento di queste barche in Italia, a portarli in alta montagna, giusto? Subito. Fate cambiare aria, così si ossigena bene e preparano le granatine. Naturalmente non su questo, sulle granatine, sui ghiacciai, ecco, sull'affondamento dei barconi, ma sul mito dell'indipendenza. Ecco, allora diciamola tutta su Boso. Aristotele diceva che l'uomo è un animale politico. Boso è un animale e basta. Dici, eh? Beh, sì, un animale non si offenderà perché è un uomo di spirito. Aristotele diceva che l'uomo è un animale politico. Ecco. Io direi che Boso è soldato da rimanere. Boso, tra l'altro, che dice che Berlusconi vale meno di Parenzo. Senti. Per me Berlusconi non è niente. Ma che vuol dire non è niente? Cioè, tutti quanti lo decantano e questo e quell'altro stato. Per me Berlusconi vale molto meno di Parenzo. Berlusconi in politica per gli affari suoi, a casa. Ma se Berlusconi questa storia di ministeri non la fa, voi che fate? A casa? No, Berlusconi va a casa, ma lo sa anche lui. Ma fosse per lei l'avrebbe già mandato a casa Berlusconi, eh? Io sì. Io come? Non l'avrei nemmeno votato. Lei rimane convinto che Berlusconi sia, come diceva all'epoca Bossi, mafioso, eccetera, eccetera? No, no, io non dico questo. Io dico soltanto all'epoca che questo diceva Bossi. È venuto a farsi gli affari suoi. Bene. Antonio da Latina, buonasera. Allora, saluto lei, dottor Cruciani, e il dottor Parenzo. Dica. Vi devo dire che proprio, diciamo, qualche mese fa mi eravate anche un tantino antipatici. Poi sono andato su YouTube e ho visto i vostri visi, adesso vi siete simpatici. Quindi, bene, allora volevo proceda, fare una... proceda. Sì. Ho sentito poco fa la dichiarazione di quel tizio, lascia il tempo che trova. Io sono un elettore della PDL, una volta elettore felice, adesso un po' meno perché mi dispiace che Berlusconi debba comunque sottostare a, non parliamo di ricatti, ma comunque delle, come dire, delle spinte che vengono dalla Lega, dove secondo me è vero che Bossi, come dice Berlusconi, è un buon alleato, il problema è che è la base di Bossi che non è d'accordo ad essere alleati con Berlusconi, nel senso che in questo momento vogliono tirare il più possibile acqua al loro mulino e vogliono addirittura adesso uffici di rappresentanza, perché i ministeri non glieli daranno mai al nord, e uffici di rappresentanza, senza pensare che comunque anche questi uffici di rappresentanza sono dei costi, no? per lo Stato doverli trasferire, quindi magari pensiamo, dovremmo pensare un pochino a quello che era nel programma nostro che è stato presentato, quindi dovrebbe Berlusconi secondo me dovrebbe, ecco, piuttosto che stare lì aggrappato per forza a questa legislatura, tirare dritto, chiudere con la Lega e presentarsi da solo, che secondo me avrebbe ancora più voti, perché dimostrerebbe di essere comunque una persona con le cose. Antonio, dopo avere rotto con Casini, con Fini, adesso pure con Bossi, a fine che si presenta da lui, si presenta... io sono stato dispiaciuto di Fini che se n'è andato, ma no, ho capito, cioè lei sta dicendo dovrebbe rompere con la Lega, che rimane l'unico alleato. Ok, andiamo nelle elezioni anticipate, perché abbiamo preso sganazzoni da tutte le parti, ricominciamo da capo, ci presentiamo ognuno con il proprio programma e poi la gente voterà. Va bene, Antonio, mi pare un'ipotesi impossibile da verificarsi. Grazie, Alberto da Bergamo. Buonasera, sono Alberto da Bergamo. Ho capito, dica. Niente, io volevo dire solo una cosa a proposito di quello che ha detto Parenzo, di che devono andarsene a casa. Io voglio dire solo questo: là dove c'è il cadavere, là dove c'è il cadavere volano gli avvoltoi. Se vogliamo liberarci degli avvoltoi, dobbiamo togliere il cadavere. Cioè, fuori di metafora, ecco, i politici appunto guadagnano troppo. E se li continuiamo a pagare così, gli avvoltoi torneranno sempre. Ma che... Buonasera. Ma non c'entra assolutamente nulla. Politico, un bravo politico deve essere pagato. Magari devono essere di meno i politici, certo. Ma non c'entra niente la questione degli stipendi. Ma guadagnano troppo. Quando in Italia, Alberto, non è il problema principale quanto guadagnano, su... C'è gente che guadagna, c'è gente che per 20.000 euro ammazza le persone, lei mi capisce. Ma cosa c'entra, Alberto? Lei ci capisce? Io non capisco. Ci pensi. Quando si guadagna troppo, la politica è oggetto di rapina da parte di chi va in politica solo per interesse personale. Va bene, Alberto. Perché c'è gente. Buono. E guarda che non è un discorso qualunquista. No, ma no. Il punto è uno: cioè, i soldi servono per fare politica, e poi possiamo discutere. Senta, vada a vedere in Svezia quanto guadagna un politico. Un politico guadagna 5.000 euro. Ed è il paese più trasparente e più avanzato dal punto di vista dell'efficienza. Questo non la fa riflettere. Sì, mi fa riflettere molto, soprattutto sul fatto che i parlamentari no, è una vita che ci penso, Alberto. Il problema non è, possono essere le pensioni, eccetera, probabilmente troppi benefit, per carità, si può correggere tutto, ma non è questo il punto. La ringrazio. Dove andiamo? Marco da Napoli. Sì, buonasera. buonasera a tutti, grazie. Dica. No, io volevo soltanto risponderle alla domanda che ha fatto lei prima, no? Cioè, se per voi Maroni che dice queste parole sulla stazione, eccetera, eccetera, la padania libera è uno scandalo, no? Ma io, a mio avviso, sì, la vedo come uno scandalo, probabilmente non la penso come Parenzio, però mi spiego, io tengo molto alla figura dello Stato in quanto Stato. Allora, se un ministro è a Roma, prende uno stipendio dalla Roma ladrona, che voglio dire chi viene tanto decantata dai leghisti, eccetera, prende un bello stipendio, appunto da parlamentare, come diceva l'amico poc'anzi, e poi dopo, in mezzo alla sua gente, esce dicendo, fino a speriamo, la padania libera, eccetera, eccetera. Insomma, a me sembra veramente scandaloso, perché diventa folcloristico e divertente in alcune cose. Però poi, se ci riflettiamo, ci fermiamo un attimo, è scandaloso o no? Cioè, un ministro dell'interno come Bocchi... Cioè, ma in teoria, Marco, dovrebbe essere, allora, se proprio vogliamo ragionare come ragiona lei, dovrebbe essere scandaloso il fatto, in teoria, che non il fatto che Maroni invochi la Padania indipendente, ma il fatto che esista un movimento politico al governo centrale, che ha come... progetto, come dire, ideale, quello dell'indipendenza di una parte del paese. Ma c'è di più, ma scusami, c'è di più. Io informo il radioascoltatore che il gruppo della Lega Nord alla Camera per l'indipendenza della Padania. Sì. Quindi qual è? Qual è il gioco? Allora, sono eversivi? Secondo me, quando dicono così, no, vabbè, è desiderata, io non sono d'accordo, ma non c'è eversione. Il gruppo si chiama Per l'indipendenza della Padania. Ti piace? Non ti piace? Possiamo discuterne, ma dov'è l'eversione? C'è la borsa, torniamo tra un attimo. Eccoci, 19.35, la Zanzara, 800 24 00 24, in collegamento da Siena, da casa sua, David Parenzo. Ricominciamo con gli ascoltatori. Carlo da Rimini, buonasera. Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dica. Io volevo iniziare prima con una cosa meno seria, breve, e poi una seria. La meno seria è che non potevo non chiamarvi nella settimana di Pontida, cioè la fiera per Zanzare più grande aspettata del mondo. Quindi, come la fiera per Zanzare, scusi? Come la fiera per Zanzare, tutto quel sangue e carne, ma 50.000 persone nel prato più alta densità di zanzare della terra, forse. Lei dice? Quindi, ma Parenzo, non so se Parenzo c'è stato, mi sa che le zanzare mica l'hanno assalito. Non c'era nessuna zanzara sul sacro prato di Pontida, ma mi sembra strano, a me non risulta così. Comunque, a parte questo, io volevo fare una considerazione. Scusi Carlo, lei ha l'accento napoletano, parla da Rimini, c'è Parenzo, guardi, che è stato a Pontida, c'ha ragione lei. Come diceva Troise, migrante. Sì. Sì, no, ma ho capito, ma non stavo mettendo in discussione lei, il suo status, stavo semplicemente dicendo, Parenzo è stato a Pontida, dice che non c'era mezza zanzara, a meno che non sia una metafora la sua, lei invece è napoletano, sta a Rimini e vuole pretende di sapere cosa c'era a Pontida. Ma non è che pretendo, io ho saputo così che c'erano le zanzare, comunque era una battuta, non era un... Appunto, cioè, che voleva dire, ho detto qual prima... Qual è la metafora? Che cioè, l'Italia da 17 anni aspetta quello che si dice a Pontida. Io credo semplicemente che la Lega faccia semplicemente il gioco di rilanciare, di spararla al rialzo per ottenere un minimo passo passo ogni tanto, perché comunque onestamente... Questo fatto dei ministeri, ma anche quello che ha detto prima il signore Muraro, mi sembra, si chiami, cioè una cosa che viene da ridere. Cioè, se lei l'ha capito quello che voleva dire Muraro, io non ho capito io niente. Muraro l'ho capito, però io vorrei proporre uno scambio, visto che lui ha detto che per i ministeri ci vorrebbe una direzione operativa che li faccia lavorare meglio, in maniera più efficiente, trasferendoli al nord. E ha detto la stessa cosa per l'immondizia di Napoli. Vuole i ministeri? Si prenda pure l'immondizia, o si prenda proprio solo l'immondizia, se proprio ha voglia di organizzare l'efficienza del lavoratore del sud. Va bene, io, Carlo. Questo era il mio... Va intervento. Bene, Silvano d'Asti, buonasera. Pronto, buonasera a voi. Dica. Complimenti per la trasmissione. Volevo lanciare una provocazione, ma sicuramente sarete d'accordo con me. Cioè? Perché non si fa il referendum più in avanti per diminuire lo stipendio a tutti i politici, tutti i parlamentari, tutti proprio? Ancora con sta storia, Silvano? Ma sì, siamo d'accordo su tante cose, sulla riduzione del numero di parlamentari, sulla riduzione dei benefit, sui doppi incarichi, lo stipendio, su... proprio, lo stipendio. Ma perché lo stipendio cosa c'entra? Lo stipendio, forse ci sono troppi benefit, bisogna sicuramente agire sulle pensioni dei parlamentari. Facciamolo, certo, per carità, ma il problema non è lo stipendio dei parlamentari. Mi fanno ridere quelli che dicono bisogna dimezzare lo stipendio dei parlamentari. Ma che vuol dire? Per fare politica ci vogliono anche i soldi per pagare le segretarie, per fare attività politica. Silvano, è chiaro o no? Sì, ma dico, ma non sono un po' troppi quelli che vengono... Può darsi che ci sono troppi benefit, non lo so, può darsi che ci sono, sicuramente le pensioni sono uno scandalo, dopodiché non è che si può dimezzare lo stipendio dei parlamentari, entriamo un po' nel concreto, altrimenti rimaniamo sempre appesi così. Sì, giusto, no? Per carità. Ho capito, lei dice bisogna togliere un sacco di soldi ai politici, però... Era una mia idea che, non so... Non è solo sua, diciamo. Se ne parla da tanti anni, purtroppo se ne parla e basta. Orazio da Messina, buonasera. Buonasera. Dica. Allora, io trovo assolutamente scandaloso che un ministro, nella qualità di ministro e soprattutto degli interni, inneggi alla secessione, all'indipendenza, mentre la piazza urlava secessione. Orazio, le ha ricordato prima Parenzo che il gruppo parlamentare della Lega è Lega Nord per l'indipendenza della Padania, non da oggi, da sempre. Poi sì, lasci... sì, lo so, ma è 20 anni che predicano la secessione. Lei dice che il ministro degli interni che va in una piazza, un comizio... Nella qualità. Poi nello specifico, cioè sulla secessione, il guaio è che la Lega non è seria, perché avrebbe già dovuto farla. Io sarò felicissimo se la Lega darà seguito ai suoi progetti secessionisti, soprattutto con una speranza di incontrare da meridionale, da siciliano, di rincontrarli a Gaeta e forse questa volta con qualche esito diverso della battaglia. E forse cioè in che senso, scusi? Ci riprenderemo... Cioè, se finalmente ci scontriamo e ci pigliamo la rivincita di Gaeta, noi meridionali. Cioè, lei vuole un sud indipendente, un nord indipendente che si fanno pure e che si fanno pure guerra. E che si fanno pure guerra. Dopo che il nord avrà restituito tutto quello che ha rapinato 150 anni fa. Vabbè, ma Orazio, lei sta parlando seriamente oppure è in preda ad una sorta di raptus improvviso? Guarda, io non le consento di definire le mie posizioni frutto di un raptus. Io sono... Cioè, scusi, lei ha detto io voglio l'indipendenza della... Chiunque abbia letto la storiografia della cosiddetta Unità d'Italia non può... Va bene, ma lì si può discutere. Non posso pensarla come me. Orazio, lì si può discutere sulla storia. Guardi, non compro nulla che sia fatto a nord di Napoli. Se devo comprare qualcosa che non produciamo dalle nostre zone, mi rivolgo all'estero. Non sopporto il nord. Non ho festeggiato l'unità, non me ne importa nulla. Non sopporta il nord. Ma lei c'è mai stato oppure è rimasto confinato a Messina? Come no, io conosco il nord. Certo, Venezia, splendida città, bellissima città, Milano, meravigliosa. Io non discuto. Però lei vorrebbe l'indipendenza. L'indipendenza. Io sono il figlio di quei siciliani e di quei meridionali che sono stati aggrediti, violentati, rapinati di tutto, anche della speranza, dai nordisti, dal nord, da Garibaldi, e dalla nostra classe dirigente in Sicilia, maledetti giorni in cui è sbarcato. Va bene, Orazio, ho capito, maledetto giorno in cui è sbarcato, dunque lei vorrebbe, che ne so, due stati indipendenti, giusto? No, io non me ne frega niente, io voglio il meridione, voglio il regno delle due Sicilie. Bene, anche che ho detto io. E il nord se ne vada al diavolo, finalmente. Beh, al diavolo non se ne può andare, almeno al massimo faranno un altro stato. Ma vogliono fare la secessione, scusi. Ho capito, ma lei prevede anche una futura guerra tra queste due entità? Io non prevedo, io dico, la secessione come si fa? La secessione ma chi si scontra a Gaeta? Orazio, però si calmi un attimo, chi si scontra a Gaeta? Il nord contro il sud. Armati, con le navi, con i fucili, con che cosa? Come? Con i fucili, con le navi, con che cosa? Boss non dice sempre, Boss non dice ogni momento che ha 300.000 fucili pronti a mobilitarli. E voi quanti ne avete? Ah, non lo so, io non sono... Lei ha fucili? Lei ha fucili? No, assolutamente no. E sta secessione come si fa allora? Il punto è che, scusi, veramente, abbiamo toccato il fondo, noi siamo ogni giorno sbeffeggiati. Anche voi parlate di evasione massima al sud, e sapete bene che l'evasione massima E allora, beh, noi non ne possiamo. Ma che c'entra più. Come quantità? Io, sì, perché ci sono più soldi, che vuol dire? Non ne posso più, capisci? Io non ne posso assolutamente più. Vabbè. Di essere considerato cittadino di serie B. E allora a questo punto, se il Nord vuole la secessione, se la Lega vuole Scusa, intervieni tu, Parenzo, perché ieri abbiamo scoperto anche una cosa abbastanza scandalosa da parte del presidente della Regione Sicilia Lombardo, che è intervenuto qui alla Zanzara, giusto? Parenzo, il quale ha detto, voglio ricordare a proposito di Nord e di Sud, caro Orazio da Messina, che in Sicilia io ho 30.000 forestali, ma potrei tranquillamente gestire i problemi dell'antincendio dei boschi con un quinto del personale. Adesso lasciamo stare Lombardo, quello che ha fatto, quello che non ha fatto, ieri ci ha spiegato, ma di qualcosa tu, Parenzo, su questo. Ho troppi forestali, ho 30.000 forestali e potrei gestire tutto con un quinto, guardi, di meno. Guardi, caro signor Orazio da Messina, terra bellissima, terra in cui sono venuto più volte a passare le vacanze, se la prenda con la classe dirigente della Sicilia che da 50 anni ha fatto carne di porco di quella terra, carne di porco. È così la questione, Orazio, ha capito o no? No, classe dirigente. Bene, avete capito voi. Il punto è che qua non si può, il piesto scritto, urlare secessione, e, oppure considerare il sud come... ma chi li ha assunti 30.000 forestali? Ce ne vorrebbero un quinto di meno. Chi li ha assunti, Orazio? Non è che li ha assunti uno del nord, certo, li avete assunti voi. Dopo che il nord ci ha rapinato di tutto. Lei lo sa che il nord ci ha rapinato di tutto 150 anni fa? Con che cosa dobbiamo campare? Guardi, idee. Qua non c'è per il sud, non c'è speranza, ce n'è una sola. Se il nord, perché ha la forza per farlo, noi non ce l'abbiamo, sì, se la vai per gli affari suoi. E guardi, allora facciamo, parli un po'. Facciamo due stati bellissimi. Va bene, ho capito. Indipendente. Parenzo. E ognuno, no, dico Orazio, per parlare seriamente, senta che cosa ha da dire il presidente della Confindustria Sicilia, il dottor Lobello, che ha sempre detto meno Stato e più mercato in Sicilia. Questo ci vuole, meno Stato e più mercato. E a casa una parte di quella classe dirigente che da 50 anni si è fatta i cazzi propri lì, anziché pensare ai cittadini. Lo sottolineo, come se ne sono fatti a Roma, come se ne sono fatti a Napoli, come se ne sono fatti a Milano. Va bene, va bene. Come se ne sono fatti a Venezia, a Milano, rifiuti l'Italia. L'Italia di Garibaldi e dei Savoia, che ci avete dato, è questa. Ma che c'entra questo? Adesso Italia, è colpa di Garibaldi e di Savoia. Scusi, Orazio, Orazio. Della mafia con cui l'unità si è fatta, perché con chi si è fatta l'unità? Scusi Orazio, secondo lei... Chissà perché vengono sempre a farsi curare al nord, sa perché, amico mio? No, guarda, io a Messina ci sono dei punti di grande eccellenza, io quando mi sono operato alla tiroide e in barba a Pisa, in barba ai centri più celebrati, a Padova, mi sono operato senza problemi a Messina, perché ci sono dei punti di eccellenza come ci sono. Ma non c'è ovunque. Dubbio, ma non c'è noi dubbio. Orazio, non è che è colpa di Garibaldi, d'Italia, scusi un attimo Orazio, per chiudere e la ringrazio, non è che è colpa di Garibaldi se, ripeto, qualcuno nel corso di 30-40 anni ha assunto 30.000 forestali, mentre i problemi dell'incendio, lo ripeto, dei boschi possono essere gestiti con un quinto del personale, non un quinto in meno, un quinto del personale. Grazie, Filippo dalla provincia di Novara, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Pensavo che partisse un'ambulanza nel frattempo. Beh, dopo ancora questa... no, stasera no. Stasera scaldiamo un po' gli animi. Stasera sono poi... tutte occupate già. Ah, sono già. Ancora dalla settimana scorsa sono occupate. Comunque, no, io pensavo che dopo questa riunione di Pontida era un destino già scritto, secondo me. Perché alla fine nel 2008, quando sono state le elezioni, che la Lega ha stravinto, un sacco di suoi colleghi giornalisti giustamente hanno detto: ma la Lega poi riuscirà veramente ad applicare questo programma che ha tanto dato, che ha tanto gridato negli anni precedenti, l'immigrazione, il federalismo, eccetera? Purtroppo forse è più facile fare l'opposizione che fare il governo, perché comunque quando poi sei lì a governare ti trovi la Comunità Europea che giustamente ha le sue esigenze e noi ne facciamo parte. Un Presidente della Repubblica che comunque non si fa dire, e quando c'è da dire qualcosa lo dice, come la missione in Libia, forse così facile come la pensavano loro quegli anni fa non è. Bisogna comunque scendere dai compromessi. Beh, certamente il governo è sempre più complicato dell'opposizione, caro Filippo, e degli slogan, anche per tanti motivi che riguardano problemi cronici del nostro paese, la burocrazia, la difficoltà di far passare decisioni prese al centro, eccetera eccetera. Ma scusa, tu della cosa di Maroni cosa pensi? Perché io ho detto che per me non è uno scandalo, non voglio l'indipendenza del Nord. Figurati se mi scandalizzo, il fatto che un ministro degli interni va a fare un comizio con il suo partito e che alla fine dice viva la Padania indipendente. Chissà quante altre volte l'avrà detto, solo che non ce ne siamo accorti. Esatto. Salvatore da Napoli, buonasera. Salve, buonasera. Mi sente? Sì, la sento. Allora, volevo sinteticamente rivolgermi solo al signor Parenzo per quanto riguarda la questione sempre Maroni. Credo che non sia un problema di eversione, ma semplicemente quello che è un problema di etica, se vuole anche professionale, ma comunque di morale, cioè quello che ormai nei politici in particolare in questo paese è diventato meno che un optional. Credo che un ministro che abbia in carico un ministero della portata di quello degli interni, insomma, forse è lì lo scandalo, quello che un ministro con un ministero del genere si permette poi di dire. Ma questa è una doppia ipocrisia. Dice, siccome è ministro degli interni non può parlare di indipendenza. No, invece è come... se è ministro delle infrastrutture può farlo. Ma che sciocchezza, è un ministro o un ministro? No, non può quello è ancora più pesante. Qualsiasi ministro. Perché vuol dire che quello è un ministro che deve garantire la sicurezza e l'unità dello Stato. E perché non può garantire la sicurezza se pensa che vuole l'indipendenza? Ma che discorso è? Certo, è come se, allora, parlando alla Berlusconi, è come ma se non diciamo sciocchezze. Mi faccia dire la mia sciocchezza. È come se sciocchezze, lo dico per discutere, per carità, rispetto alla sua opinione, ma è una sciocchezza sesquipedale. Sì, no, va bene. È come se un direttore del board della Fininvest dicesse il piano dell'azienda mi sta bene, però sì, però scusi, Salvatore, tirare fuori Rete 4 o Italia 1. Salvatore, vi interrompo. Il punto è molto semplice. Se si critica Maroni per questo, allora si deve dire un partito, alcuni lo dicono, è un partito che ha come sogno quello dell'indipendenza, non deve nemmeno entrare in un governo di un paese che naturalmente si vuole un paese che si vuole unito, eccetera eccetera. Per cui insomma è abbastanza scontato e sono polemiche francamente inutili. Poi bisogna le persone vanno giudicate dai fatti. Non credo che nei fatti Maroni da ministro dell'interno agisca da secessionista, fino a prova contraria non è così. Francesco da Napoli, buonasera. Salve, buonasera. Senta, riguardo l'intervento del precedente ascoltatore Orazio, io vorrei dire a Orazio che sono perfettamente d'accordo con lui, che anche io sarei d'accordissimo a una secessione, perché io sinceramente a essere assieme in uno stesso paese in personaggi come quelli della Lega non ci sono, mi sta più bene. Quindi per me, se domani mattina c'è una possibilità di un referendum, io voterò per la secessione, non contro la secessione. Così facciamo contenti un po' di persone al nord e sinceramente anche al sud. Grazie. Va bene Francesco. Andiamo a Milano. Luca. Arriva. Dica. Ma io semplicemente volevo dire, la Lega in passato, quando era di opposizione, aveva un'anima. Adesso questa storia di chiedere i ministeri al nord, se meridionalizzata, è peggio dell'UDC a sto punto. Si dice tanto che se la ricerca dei posti pubblici, alla fine va a richiedere un ministero che non ha senso. Luca, io la penso come lei, cioè le battaglie della Lega dovrebbero essere altre, non portare pezzi di burocrazia, per carità, burocrazia magari che funziona, pezzi di burocrazia al nord, fare confusione, creare centri di spesa ulteriori, aprire sedi di governi centrali in Veneto, in Lombardia, cose totalmente inutili rispetto alle priorità del paese. Ma il bello è che se ne rendono conto anche loro, solo che c'è questo grido di battaglia, è come un grido di battaglia, come una sorta di mantra che si ripete ogni tanto e tutti i parlamentari leghisti dicono beh sì, questa è una battaglia, un'aspirazione, eccetera eccetera. Se ne rendono conto anche loro che secondo non è me così? Diversamente. Secondo me è semplicemente, detta brutalmente, una fissazione di Bossi mal digerita da buona parte della classe dirigente, perché infatti tutti sono imbarazzati nel difendere questa cosa e tutti dicono no, ma il vero problema è la questione delle tasse. Ah, tu dici che è una fissazione di boss? Adesso fissazione detto in modo così un po' forte, certo, evidentemente, certo. Ma è un mantra di Bossi che ha voluto rispolverare. Ci credono, io me ne assumo la responsabilità, credo che in pochi, io non ho mai sentito uno che dice è una delle tante, la mettono sempre in fondo, al primo punto mettono la questione del patto di stabilità, che è una questione molto più seria, ad esempio. Io credo che buona parte anche della classe dirigente della Lega mal digerisca questa roba qui, cioè non la compre e capisce che il popolo, anche dei suoi elettori, non la vuole. Io credo questo. Poi magari c'è una fissazione, no? Di Bossi che tutti seguono perché le fissazioni bisogna seguirle. Secondo me un po' sì. Tant'è che oggi Bossi ripeteva questa cosa nonostante ci fosse stato un accordo, magari non lo sapeva nemmeno, tra i vertici della Lega e il PDL per questa storia degli uffici e non dei ministeri. Ma abbiamo con noi Emilio Fede, buonasera. Eccoci, ma io non c'entro niente con l'accordo dei ministeri. No, non ma lei che c'entra? Che c'entra? Assolutamente no, figuriamoci se si mette a fare gli accordi tra i ministeri con la Lega, lei che c'entra? A meno che non pensi di fare politica in futuro. Ma non ci figuriamo, sai, cioè, dire, come si dice, a me il siciliano hanno insegnato al nord, Ofelè fa il tuo mestiere, cioè pasticcere fa il tuo mestiere, non pensare di fare altro. E io naturalmente pensate, se faccio giornalista da tutta, mamma mia, da quanti anni adesso mi metto a fare politico, no. E vabbè, ma non c'è niente di male, mi sono accorto durante il dibattito, sono pochi quelli che sono spontanei nel dire le cose. Ma lei, io lo vedrei bene al Senato, Emilio Fede al Senato. Sì, bellissimo. Naturalmente accompagnato dalla badante oramai, che mi accompagna e mi metto sulla poltrona. Vabbè, perché? Ma adesso voglio dire... Assolutamente. No, ma certo, io rispetto molto la politica, molto. Senta, invece nel futuro di Emilio Fede, adesso abbiamo la pubblicità, però volevo, che c'è? Sempre TG4, fisso, ormai ogni volta faccio sempre la stessa domanda, dottor Fede. Ecco, nel futuro immediato c'è la pubblicità. Sì. E poi che faccio? Aspetto dopo la pubblicità oppure parlo adesso? No, allora... No, che facciamo? Diamo la pubblicità. La chiami lei, come la chiama di solito al TG4 lei? Come? Come la chiama al TG4 la pubblicità? Io la chiamo... Come la chiamo? Pubblicità. Pubblicità. Eccoci, David Parenzo in collegamento da Siena, il direttore del TG4 Emilio Fede con noi da Cologno Mondadove. Dove si trova Fede? Milano 2, Segrate Milano. Per sempre. Servimento postale Arcore, scusate. No, come Arcore? Come Arcore, che dici? C'è una sorta di lapsus, freudiano. Un po' freudiano, Che perché va sempre lì, grande direttore. Lingua battuta del dente duole. Senta, Fede, ma io le faccio sempre la stessa domanda. Sì. Prima o poi avrò una risposta, ma sì. Direttore del TG4 ancora per quanto tempo? Ma credo fino a domani. No, vabbè, adesso... No, non lo so, guarda, detto onestamente non lo so. Tanto voi che fate questo mio stesso mestiere sapete che questo lo si ama oppure non lo si fa. Pensate, non è molto, che faccio giornalista, sono appena 60 anni. Appunto. Sono 60 anni, 62, 63, 64, non lo so, comunque una vita. E che cosa si desidera? Di andare avanti il più possibile, di stare bene, di potersi continuare a divertire e poi... Sa, io quando sento dire in certe omelie, fino a quando non mi chiama, io sto qua. E chi la deve chiamare? Quando vai lui, non Berlusconi. No, è più o meno, ma comunque. Come più o meno? Cioè, Berlusconi è come Dio, no? No, assolutamente sarebbe blasfemo. Molto di più. Con voi che siete troppo intelligenti si può fare anche dell'ironia. Non amare ironia, dell'ironia. No, ma io dico sul serio, nel senso che non saprei cosa fare. Ho solo fatto questo, ho cominciato a 14 anni. E che cosa volete che faccia? 27 anni in Rai e 23 anni qua, sono 50 solo di televisione. Ma qui cambia tutto, giovani che vanno nella direzione di Sky TG24, un nuovo direttore, giovanissimo, una donna. Molto bella e brava. Devo dire, poi mi pare che il consorte sia anche lui uno dei vostri. Uno dei nostri. Sì. Lui è quello che fa il quinto sesto grado. No, quarto grado, quarto grado. Soltanto quarto. Beh, adesso con la moglie lì farà il quinto grado. Il quinto grado l'ha fatto Bonatti, ragazzi. Vuoi che lo faccia Pilates? No, come si chiama lui? Come Pilates? Sottile. Mannaggia la miseria. Ma non era scusi, perché... sarebbe curioso. Provi a pronunciare il nome Woodcock. Chiedo scusa, Woodcock. Io lo conosco. Come si pronuncia? Woodcock. È una persona molto intelligente e anche simpatico. Mi ha interrogato all'epoca di Ballettopoli. Sì. Ed è stata una persona molto civile. Adesso sta facendo un casino con questa storia. Cosa pazzesca. Questa è una cosa veramente... guarda. Come la giudica lei? È una grande confusione, non ci capisco un tubo. Anch'io, devo dire la verità. Onestamente non si capisce. Insomma. E anche entrare nel merito, una volta viene fuori Don Zemolo, come si chiama? Montezemolo, poi una volta Letta, poi una volta D'Alema, poi qui, poi là, poi su. Cioè, francamente... È un'inchiesta sul potere di un uomo, vabbè... Vediamo cosa succede. Io non l'ho conosciuto Bisignani. Lei l'ha conosciuto? No. Non strano però. Sì, perché io devo conoscere tutti. Beh, uomini di potere, uomini di potere importanti, lei li conosce tutti, ma anche solo per mestiere, mica ha detto... No, ma scherzo, è una battuta, non lo conosco. Mi pare uno che, come dice quel ragazzo, quando è nato gli hanno detto, la mamma gli ha detto, devi farti strada nella vita. Ah, quello non c'è. E lui ha fatto un'autostrada, doveva fare una strada, gli hanno detto. No, comunque... Senta, scusi un attimo, Noi ci diamo del lei perché... No, diamoci del tu. Scusami un attimo, ma il Sara Varetto, direttore di Sky TG24, il marito, com'è che l'ha chiamato prima? Pilates. No, ho sbagliato, Salvo Sottile, che è uno dei vostri conduttori del quarto grado su Rete 4, sì, è stato sempre, come dire, quasi impredicato di diventare direttore del TG4, o no? Aspetta che faccio gli scongiuri. Aspetta, pausa. Può essere, fatto. Ma doveva diventare o no? È stato quasi, stava facendo le scarpe al signor Fede, capito? Sì. No, lei ho visto, adesso io credo devo che il TG4, lui così come bravo. L'abbiamo conosciuto, bravo, ha soltanto un nome. Anche di nome. Aspetta un attimo. Mica detto, però adesso come fa? La moglie direttura e lui non direttori? Appunto. No, ma comunque bravo, è un ragazzo molto bravo. Cioè, in gambissima. Per cui lei è un po' timoroso per questa cosa qua. Sì, guarda, me la faccio sotto. Però alla mia età c'ho i pannoloni, quindi va benissimo. Ma è vero che insomma ci punta lui, ci punta. C'era questa cosa a media, se facciamo direttore del TG4 Salvo Sottile al posto di Fede. Cioè, qualcuno ci ha pensato o no? 1, 2, 3, 4. Dunque, finora i candidati sono 9. Uno è indagato, quindi non lo so, forse è fuori causa. Chi è? Io. Ok. Che però è già direttore. Sì, certo. No, comunque. E gli altri? A parte che non lo so, adesso scherzi a parte. Non ci sono candidati, vabbè. No, non lo so, ma ci mancherebbe altro. Sai cosa vorrei io? Adesso, sinceramente, che ci sia veramente la persona che possa sostituirmi. Io e non c'è. No, ci sarà. Per adesso non c'è, dico. No, io non lo so, non l'ho cercata. Dopo dovrò cercare l'azienda. C'è un momento in cui bisogna, come si suole dire, attaccare per il calciatore le scarpe al chiodo. Adesso manco si può fare, insomma, calcio scommesse, attacco le scarpe al chiodo, mi indagano anche per il calcio scommesse. E quando appende le scarpe al chiodo, Fede? Più tardi possibile. Guarda, sai cosa c'è? Che io più che le scarpe uso le pantofole oramai. Da casa metto i mutandoni, metto il cappuccetto in testa. No, non lo so. Però posso dire una cosa, tirate le battute. Sì. Questo vestire io lo amo. Come voglio finire? Voglio finirlo. Guarda, te lo dirò. Ve lo dico ma non lo dite, in diretta, così finalmente faccio ascolti. Oh, in diretta, quando lascio lo dirò in diretta. In diretta con Arcore, in modo che ciao presidente. No, ma comunque. Ma lui le dice, lui, non questa volta lui, Dio, lui, quello di Arcore, le dice di andare avanti, stai tranquillo, TG4, tutto a posto, non... No, per la verità non ho mai parlato con lui di queste cose, tantomeno in questo periodo, non credo che... Da quanto tempo è che non vi sentite? Passo parola. Allora, non me lo ricordo neanche. Siete in freddo? Come? Siete in freddo un po', no? No, quando c'è col pinguino, l'aria condizionata, quando c'è molto caldo. No, comunque no, certamente ci siamo sentiti qualche volta. Sì, ho capito dove volete arrivare, ma quello fa parte del pettegolezzo, capito? Quello è Pilates che dice a Pilates e poi guarda che passo io, arriva la moglie, anche la nonna, la zia potrebbe diventare direttore del vice direttore, mentre la bisnonna ancora potrebbe aspirare a fare la coordinatrice. No, ma comunque a parte questo non c'è problema. Se l'azienda mi chiede di togliermi di mezzo, cioè di togliermi di mezzo, insomma, cioè di essere studio, io, sai cos'è? Il problema è restare, e voi lo sapete tanto quanto me e anche meglio di me. Sì. Cioè, quando si fa un mestiere come questo, che qualcuno una volta ipotizzava il sogno che fosse per tutti una missione, invece adesso è voglio i gradi, voglio la qualifica, il tempo determinato, voglio la paternità, la maternità, la nonnità, tutto quanto, allora molto è cambiato. Però una volta noi si lavorava, se dico, mi ricordo la Buonanima di Barbato, se dico, mi ricordo Fabiani, mi ricordo la Buonanima di Enzo Biagi, dal quale io sono stato assunto in Rai, non c'era orario, c'era l'amore per questo lavoro, vedi TV7. Allora oggi invece è tutto troppo un po' sindacalizzato, diciamo. Sì, bravo, e la verità è anche questa. Vabbè, non allora, caro Fede, io posso... Aspetta che poi la zanzara passa. Dico, non si può fare questo mestiere con l'orologio al polso, a me lo magari dici. Al collo, la sveglia al collo, sì, l'orologio. ma che, un attimo di Lele Mora. Che impressione ti ha fatto l'arresto di Lele Mora? Mi ha molto, ma molto rattristato. Io ieri, dando notizia, non potevo approfittare naturalmente del telegiornale per dire molto di più, però credo che in una frase si può riassumere il momento della tristezza. Avevo detto, quando l'albero è caduto, tutti vanno a fare la legna. Lele Mora è stato un grande impresario, è stato, è vivo, e mi auguro che presto possa tornare in libertà, eccetera. È stato uno per il quale bisogna farsi raccomandare. Ma avrà sbagliato qualche cosa o no? Magari dirà la magistratura, però voglio dire, non dimentichiamoci che da Simona Ventura, da Antonella Clerici, da questo a quell'altro, cioè erano tutti in coda, in coda. Questo va bene, però purtroppo ha fatto una bancarotta, direttore, che ti devo dire? Io la bancarotta non la posso fare, non c'ho società. No, infatti non dico di te, dico una di società di... Zanzara la mettiamo anche ai paradisi fiscali. Guarda, se ci stiamo, se mi date retta, io conosco un paradiso fiscale. In che rapporti è adesso con Mora lei? Anche lì un po' difficili, oppure vi siete riconciliati? No, noi non abbiamo mai litigato. Era un amico, lo considero un amico, e in questo momento particolare gli sono ancora più vicino, perché mi piace essere garantista sempre, e lui a me non ha fatto un torto mai per anni. Io sono stato, non so come dire, sono stato un impresario nel senso che si occupava delle trasmissioni dove doveva andare ospite, eccetera. Non ha mai preteso un euro da me, mai preteso un euro, e mi mandava puntualmente al compleanno, alle feste. Cioè, è un uomo che ha saputo vivere, salvo che, no, non c'entra Sottile, salvo che, voglio dire, c'è una fissazione, Cosa c'entra Sottile? Che ho detto? C'è un po' una fissa, c'è un tarlo. Ma guarda che simpatico. C'è un tarlo. Ma per carità, è una zanzara. No, ma scherzo. Qui ci vorrà, e se lui sarà in grado, sono ben felice. Che lui venga qua. Cosa dice? Allora, io voglio capire una cosa. Questo arresto non è che dipende da altre storie, no? Dipende dalle storie di altri processi, no? Cioè, non è che lo vogliono far parlare anche di altre cose, no? No, cosa intendete dire di... Ma ho letto da qualche parte, c'è sempre questa mania di pensare che tutto avvenga d'orologeria, che tutto sia premeditato, strategia a tavolino. Lui aveva questo problema che pendeva, è stato, però devo dire, poteva pure starsene all'estero, invece è stato lì a fronte. Cioè, è stato stupido a non starsene all'estero, secondo lei? Non credo. Era meglio se evitava l'arresto stando all'estero? Beh, vuol dire, non è un'esperienza da curare al peggiore nemico, insomma, per cui era meglio se non si faceva, stava all'estero. Io oggi mi sono occupato delle carceri, perché ho ricevuto una lettera, forse anche voi l'avete ricevuto in copia, dei detenuti del DOZ di Bologna che chiedono aiuto perché le loro condizioni di vita sono mortificanti per la dignità. Dunque era meglio se non si faceva arrestare, diciamo la verità. Beh, ecco, sì, insomma, non è un'esperienza, poi tutte le esperienze alla fine servono. Ma sarebbe stato latitante, però, Non c'è questo collegamento. Io non lo faccio questo collegamento. Certo. Senti, scusami, le intercettazioni famose che noi non abbiamo mai letto, per carità, ogni tanto le evochiamo tra Briatore e la Santanchè. Tutte le hai lette perché sei, come al solito, divoratore di queste porcherie. No, ma perché è una... una volta che i magistrati commettono, che queste notizie escono in un modo o nell'altro, lecito o illecito, è meglio pubblicarle piuttosto che tenerle in tu un cassetto. Tu le hai lette perché ti riguardano anche, no? Guarda, sì, cioè, figura se non mi riguardo, sono intercettato dalla vita e sono nato intercettato. No, in questo caso erano intercettati quando sono nato, altri. Mia mamma ha detto, oh guarda, è nato un intercettatore. No, lei pensava un aereo volante. Però voglio dire questo, no, al di là delle battute. Flavio mi ha chiesto scusa. Sai, nella ti ha chiesto scusa? Come mai ti ha chiesto scusa? Beh, perché ha detto, come si dice, figlio in di puttana, delle cazzate, no? Figlio di puttana. No, vabbè, sì. Io ho detto che non lo so, mia madre certamente no, la mamma sua non credo. E perché ti ha chiesto scusa? Dunque è vero che ha detto quella cosa là? Ma che ne so che cosa abbia detto? Comunque ti ha chiesto scusa. Ha parlato del figlio di puttana, scusa, abbi pazienza, non chiede scusa. Che ne ma so? Poi siamo amici da 30 anni, dai. Sai, poi e come l'ha giustificata quella cosa? Dicendo? Sai, quando si parla al telefono si cazzeggia, questo è anche vero, eh. A me una volta mi hanno contestato. Beh, figlio di puttana non è cazzeggio, Sì, che devo fare? No, niente, che devi fare? Questi sono gli amici. Sono gli amici. Meno male che erano amici. Com'è si dice, dagli amici mi guardi Dio. No, dai nemici dagli amici mi guardi Dio, che dai nemici mi guardo io. Esatto, insomma, esatto. È una cosa di questo esatto. Genere. Anche la Santanchè pure ha chiesto scusa perché ha parlato di Gentaglia. No, la Santanchè non l'ho sentita. Ha detto Gentaglia? Sì. Ha detto Gentaglia? Sì, sì, Gentaglia. Accidentaccio. No, ma sai che ti dico sinceramente. Hanno parlato di case che tu avresti comprato alla poveretta. Alla signora Zardo. Quella è la parte più vergognosa. E lì vado fuori dall'ironia. Perché questa ragazza, detta Raffaella Zardo, vive in 60 metri quadrati in affitto. In affitto a 800 euro al mese, ma come si può dire anche per scherzo? Io poi addirittura compro case, mica non hai mai comprato una casa per la signora Zardo? No, io ho comprato una casa per me 20 anni fa, 30 anni fa, dalla fondiaria, una casa qui a Milano, ma poi non ci sarebbe nessuna necessità. Raffaella è brava. E da chi l'hanno saputi Santanchè Briatore? Chi ha saputo queste cose? Ma se lo sono inventate, come se io dicessi che tu hai comprato 3 ville quello è molto a difficile. Montecarlo. Fai partire l'acquarella per diffamazione subito nei confronti della Santanchè. Ma guarda, io non ne posso più di questa vicenda, credetemi, non auguro a nessuno. Emilio, mi annunci la pubblicità ancora, poi poi ti trattengo altri 5 minuti e basta. Annunciami la pubblicità. Allora, scusate, amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Eccoci. Parenzo, sai, io sono convinto di una cosa. Innanzitutto che quando sarà tra 10, 20 anni, 30, a me Emilio Fede mancherà moltissimo, perché comunque è un personaggio. Ma ha inventato un linguaggio nuovo del telegiornale. E sono convinto anche di un'altra cosa. Sono convinto che non sarà più direttore del TG4, del mitico TG4, così contestato, così attaccato, eccetera, quando Berlusconi non sarà più presidente del Consiglio. È un'intuizione sbagliata, signor Fede? No, non mi chiamare signor Fede, mannaggia, non sono né dottore né signore, sono Emilio Fede. Emilio, è una, no, ho detto una stupidaggine. Non è un'intuizione sbagliata, perché sai cos'è? Il problema è che a me piace dire, è un telegiornale discusso, non discusso, eccetera, ma vorrei affibbiarmi un merito, mai aggressivo nei confronti di chi la pensa magari diversamente da me. Beh, ogni tanto qualche nome lo storpi, qualche nome lo storpi. Sì, ma no, oramai cioè, qualcuno ci ha provato a farlo ma non ci riesce. Sì, ma voglio dire, è una battuta per far sorridere. Poi alla fine sono uno che entra qui alle 10 del mattino e esce alle 9 di sera, Pilate, mangiando la scrivania. Chi? Pilate, sempre. Ma qua è Pilates. Ho detto Pilates? Sono, cioè, lavoro e mi diverto, non sono quello che dice faccio il martire. Vero che quando Berlusconi magari lascia Palazzo Chigi, anche tu lasci il TG4, vogliamo fare questa promessa? No, io spero che lui rimanga a Palazzo Chigi e mi prenda a Palazzo Chigi, perché no, vado a fare, no, ma comunque guarda. Beh, allora voglio dire, no, potresti continuare a fare giornalista a Palazzo Chigi, il portavoce di Berlusconi. Guarda, il portavoce non mi diverte farlo, perché mi diverte. Portavoce, l'uomo dello stratega, diciamo. Guarda, no? Io ho fatto 8 anni d'Africa, io ho fatto il direttore, ho fatto TV7 che rimane nella storia veramente. Ho fatto sempre questo mestiere, ho fatto sempre il giornalista. Quando leggo sul giornale a proposito delle case comprate, perché ha guadagnato tanti soldi. Ma cos'è tanti soldi? Tu devi pensare che il mio stipendio. Ma cos'è questo rumore? Un cellulare? Un cellulare. Però non riesco a far capire che sono in diretta, no? Infatti. Io guadagno lo stesso stipendio che guadagnavo 15 anni fa. Non sto male, ci mancherebbe altro. Quanto guadagna Emilio Fede al TG4? Si può dire? 75.000 euro al minuto. No, vabbè, seriamente. Quando, seriamente? quanto guadagno? Beh, guarda, considerando rendiamo pubblica questa cosa. Tutto, ma quanto si può vedere sulle cose? Guadagno circa 20.000 euro al mese. 20.000 lordi? 20.000 no, netti. Netti, no, netti. Cioè, qua, beh, tanto, eh. Beh, tanto, scusa, dopo 60 anni che devo guadagnare? No, dai. No, ho sbagliato, pensavo... Al minuto, no. 20.000 netti al mese sono 200... Sono al giorno, bisogna fare al minuto, si può fare il calcolo al minuto? No, vabbè, adesso non esagerare, al minuto. 20.000 al mese sono all'anno, 220.000 euro l'anno, giusto? Ecco, tu devi pensare che di questo... No, 240. Stipendio. Guarda, vedi la privacy come va a farsi fottere, io mando... una quota a mia moglie, sì, e una quota a ciascuno delle mie figlie. Non è obbligatorio quello, eh. Ma la moglie guadagna, è deputato. È deputato. Sì, e sapete cosa guadagna netto? Lo sapete? 12.000, 8.000. Ma per carità di Dio, guadagna 5.200 euro. E poi ci sono i benefit. Benefit che beh, come cos'è? No, la conosciamo la busta paga dei parlamentari. No, ma non è vero, ma lei non fa spendere, lei dunque hanno diritto a una segretaria, un assistente, dove c'è una sola persona che le dà una mano, una sola. Sì, vabbè, ho capito, ma un perché l'altra risparmia, ed è la senatrice che non ha mai avuto un giorno di assenza, però non lo dicono mai, quando fanno le presenze, siccome lei, tra l'altro lei si chiama De Feo, sì, è figlia di Italo De Feo, sì, che è stato un grande socialista, vabbè, che è stato incarcerato dai fascisti a San Vittore, che a quale hanno dedicato una piazza a Cagli recentemente. Non mi dirai che guadagna poco da parlamentare? Guadagna 5.000 euro al mese, ragazzi, ma mi stai dicendo disoccupati, ma chi è che vi dice dei direttori quello che guadagna? Io vi ho detto la verità, chi è che ve lo dice? No, nessuno. Ma infatti tanto di cappello. No, ma è per dire che non guadagna poco neanche la senatrice, insomma, va benissimo, io non è che contesto il sbirro dei parlamentari, ma perché, anzi. Scusa, gli altri parlamentari hanno due, cioè vuol dire l'assistente più non so quello che sia. Beh, lei si tiene una sola persona, cioè, capito, e si guida la macchina. Io non credo che sia un crimine guadagnare, anzi va benissimo, ma dico che appunto rispetto a un operaio della Fiom di Pomigliano, quello che c'è, sicuramente sta meglio. Beh, scusa, la Fiom di Pomigliano, allora anche tu cosa, non guadagnare mica meno della Fiom dell'operaio della Fiom di Becca di questo. Quando è così si scade nella demagogia, nella retorica. Però non guadagna poco un parlamentare, dai, un senatore non guadagna poco. Non guadagna poco, eh. Insomma, se pensi che questa tutto il giorno infilata al Senato e viaggia continuamente, cioè, nel collegio della Campania, lei è presente dappertutto, va dappertutto, non è mai assente. Cioè è sottopagata? Come? Per fare quello che fa è sottopagata? Non è che è sottopagata, rispetto a tanti altri, guardate quali sono le presenze, però quando guardi sull'Espresso eccetera, le presenze di chi non gli fa comodo non le mettono. Presenze sono obbligate, cioè, vuol dire, è un dovere andare in Senato. Giusto, ma lei fa il suo dovere, ti sembra poco? No, perché? Ma vogliamo parlare, scusa, tu sei sposato, c'è una compagna, una fidanzata, sì, sì. Uno zito, come si dice in Sicilia, una zita, sì. Beh, e quanto guadagni? Te lo chiedo, non voglio saperlo. Che ne so, c'è 200.000 euro l'anno. Vabbè, che ne so quanto sono. Io poi non me ne intendo. Lordi, non come te, netti. Vabbè, insomma, qua la metà di te guadagna tra tutto quello che faccio. La vabbè, metà... ho capito, ma permetti, ma io faccio. Ma giusto, ma per carità, mica sto dicendo che. Appunto. Assolutamente. No, assolutamente. Non è questo, sai, se si parte da questo principio, purtroppo. Ma di che stiamo parlando all'inizio? Ci siamo persi in questa storia da soli. Stipendi. Perché vi ho dovuto dare una dimostrazione di onestà. Giusto, grande trasparenza. Il direttore del TG4, Emilio Fede, guardate, dice... guardate che non lo dice nessuno. Quando vi rispondono su questa domanda, vi dicono guadagno quanto merito di guadagnare. Bella risposta. Bravo, 20.000 euro netti al mese, bravissimo. Bravissimo. Allora, provate a chiederlo, facciamo una scommessa. Nessuno. Provate a chiederlo ai direttori, se rispondono. Questi sono affari, oppure vi rispondono guadagno quanto merito di guadagnare, capito? Guadagnano più di me. Giusto. Ma infatti anch'io non ho problemi a dire quanto, ma il tema è che è venuto fuori perché tu hai detto che ogni tanto gli dai dei soldi qui, quindi noi siamo entrati nel mezzo e dicendo no, hai detto ogni tanto giro quello dei dopo soldi, l'ha detto, quello a mia dopo, figlia, a mia moglie. No, ogni tanto, no, io faccio fisso un bonifico a una mia figlia, all'altra mia figlia e a mia moglie, fisso. E quanto ti rimane? Mi rimangono 6.000 euro al mese. E che 14.000 euro gli dai tra tua moglie e tue figlie? Sanguisughe tremende. su che braccio, ma questi sono veramente cazzi miei, scusa. Ah sì, questo pure è vero. Questo anche è vero. Anche questo è vero. Anche questo è vero. Di fronte a questo mi arrendo, è vero. Di fronte a questo si deve arrendere, alza le mani. Alzo le di fronte questi a fatti privati. La questione delle feste, come direbbe Santoro. Ma le fai ancora delle feste, c'è un processo in corso, vuoi tornare sulle feste? Come sta l'avvocato Pecorella, il mio grande amico Pecorella? Il tuo grande amico Pecorella combatte, è anche un mio grande amico. Combatte. Guarda, io li ho pregati, per favore, non occupiamocene più, lasciamo perdere, perché tanto comunque la realtà è una e una soltanto. E secondo me chi la deve conoscere la conosce benissimo. Ma la Boccassini ha detto che ad Arcore la prostituzione era palese, hai letto l'altro giorno? Palese prostituzione. No, ma io non ho sentito quello che ho detto, io ti dico soltanto quello che ti dico e poi ce lo mettiamo in scommessa, 100 euro e voi li pagherete. Emilio Fede non ha portato rubi ad Arcore. Emilio Quindi Fede sarai non assolto. Ha aspetta. Non ha, e che cazzo sembra la Boccassini? No, allora, non ha portato nessuna delle persone invitate, le ha portate Emilio Fede. Basta, è finito. Devo pagare? E vedremo, vedremo. Scommessa la facciamo qua. Io però non è che scommetto. Qual è la scommessa? Pensi di essere assolto? Scommetti 2000 euro con la zanzara? Tanto ne dai 14.000, non lo puoi darne 2000 a noi, no? O 1000. Devo essere assolto? No, non lo so, guarda. Scommetti sulla tua assoluzione? Attenzione, voi parlate, io parlo. Scommetteresti sulla tua assoluzione? No, sulla mia soluzione non scommetto perché rischio di perdere, ma non perché sono colpevole, perché così, ma attenzione, io ho sempre rispettato, non dimenticatevi che l'unico e il primo telegiornale che ha mandato in diretta a Tangentopoli che è stato il TG4, il povero Brosio è testimone, no? Anche quando Berlusconi nel 94 fu chiamato a rispondere. Ma lo rifaresti tu, visto quello che è successo dopo, anche a te, lo rifaresti, mandare in diretta i processi, ma certo, Brosio? Ma certo, ma io ho avuto sempre buoni rapporti con Greco, con Davigo, con Colombo, io dico sempre, persino la Boccassini quando mi incrociava nei corridoi mi salutava. Basta, io ho rispetto della magistratura, ho rispetto della giustizia. Però non scommetteresti sulla tua soluzione, come mai? Perché non lo dico, passo parola. Come passi parola? No, perché ci sono troppe coincidenze che mi pongono dei... Cioè dei tutto dubbi. Già deciso secondo te? No. Scritta. No, se penso a una cosa di questo genere mi butto dalla finestra, visto che sto al piano terra e casco in un giardino che mi ha regalato Berlusconi. No, come ti ha regalato, regalato Berlusconi? Sì, un giardino qui, fuori. Cioè te l'ha regalato lui? Sì, me l'ha fatto fare dai giardinieri di... Me l'ha regalato. Mica è roba sua, è già roba sua. Come? È già roba sua Milano 2, cioè non è che No, beh, vabbè, scusa, questo è il palazzo dei Cigni, sarà pure di Mediaset, no? Ah, beh, perché Mediaset di chi è, scusa, Mediaset, io ho il 90%. Senti, ma la fidanzata di Berlusconi esiste? La fidanzata di Berlusconi? Magari, non lo so, non la conosco. Come la conosco? La portava a tutte le feste, diceva. La dottoressa? La portava sempre a tutte le feste. Ha detto, vabbè. C'era sempre alle mie feste, c'era sempre vicino a me, quindi non avrei dovuto far nulla. Chissà. Da chiamare il tenente Colombo qui, Fede. Per cercare sta fidanzata. O l'ispettore Barnaby, l'ispettore Barnaby. Ma hai letto l'altro giorno, Parenzo, che pare ma volete, voi adesso vi mando il conto, perché io devo finire qua, sono dei colleghi. Ma che dove devono... devi andare? Dove devi andare? Scusa, ma devo andare. Ma resta con la zanzara. Ma resta con noi, ci sono tutte quelle feste, vengono fuori danni, resta con noi. Resta con noi invece di andare poi la sera in giro a fare danni. Dai, con noi. Comunque no. Ma scusa, Pier Silvio Berlusconi voleva prendere Floris, hai letto l'altro giorno? Sì, ed è vero. È vero? È vero, sì. No, io non ci credo. Io lo sai che non ci credo. Sì. No, che vorrei... Ma dai, scusa, ma questa... Ma è vero o no che voleva prendere Floris? Sì. Questo sì. Non so se vi svelo una verità. Svelaci una verità. No, dica. Questo è vero. È vero, ma perché è fallita la cosa? No, questo non lo so, non è che sono entrato nel merito delle cose. Però uno come Floris andrebbe bene da questa parte. Ce lo vorresti a me? Ma io ero anche amico di Sansone, anche amico di Santoro. Ma dato con culo una volta in diretta, ma voglio dire, questo non toglie che c'è il rispetto professionale. Ma Santoro sei contento che è fuori dalla Rai? No. No. Non sono mai contento che nessuno vada fuori. Michele, detto Michelino, detto Santoro, sì? Stato, quando prima di lasciarsi coinvolgere dalla politica, delle cose eccetera, è stato un grande professionista, uno dei pochi, io che ho fatto TV7, sì. Dico uno alla pari di chi ha fatto TV7. E poi che gli è successo? Michele Santoro, che ne so. Ma scusa, dai, non parliamo di Santoro. Santoro ha lasciato lì, è venuto qui, poi è tornato lì, poi è andato in Europa, poi è tornato lì. Poi e adesso qui. Che fa secondo te? Ma non lo so. la tua previsione, idea. Conosci la televisione, conosci il mondo, dici la tua su questo, su Santoro. Tutta Italia si chiede in questo momento: Santoro cosa fa? Va alla 7. Io posso accettare tutto, però che si offenda l'opinione pubblica dicendo che tutta Italia si chiede, cioè tre quarti, un po' sì, dai, ma chi se ne frega di tu Santoro? Pensi che quella della Finmeccanica, oddio, dove va Santoro? Beh, la Fiomma sì, che ha fatto male, parti del sud, oddio, dove va Santoro? Tu pensi che vanno quelli che vanno in coda per i poveri oppure quelli che stanno in carcere, oddio, dove sta Santoro? Tutti quanti disperati per l'Italia, oddio Santoro dove va? Chi cazzo che com'è che cantano? Com'è che cantano? Santoro, chi com'è? Cantoro dove va? Chi cazzo che lo sa? Ecco, perfetto, mi ma io perché io ti inviterei ogni sera, lo sai? Io vengo. È una cosa fantastica. Sono molto contento di stare con voi. Bene. No, signore Emilio Fede, direttore ad honorem della Zanzara, o ad personam. Ecco, l'unica legge ad personam che vogliamo. No, ad personam a me le leggi non interessano. Diciamo ad honorem. Ad honorem, direttore ad honorem della Zanzara. Non ho una laurea perché ho iniziato il corso di laurea in giurisprudenza, poi sono messo a fare il giornalista. E allora datemi voi. Sono laureato in Zanzara, ad honorem. In Zanzarite. Buona serata, ad honorem. Grazie. Un abbraccio, non faccia danni stasera, non fare danni. No, per carità. Ma le feste continuano poi, non si sa, boh. Ma che ne so, io non sono, ci sono. Vada a casa presto, che tardi. Pubblicità. Ma perché è chiuso? Vabbè, devo andare via, è stato mezz'ora, se non di più, abbi pazienza. Eccoci qui con la Zanzara in diretta dagli che studi. Ma guarda che è veramente una bella trasmissione questa. Adesso l'autoesaltazione. No, è una constatazione. Grazie. Strepitoso tale intervento di Emilio Buonasera. Fede alla Zanzara. Buonasera. In cui ha fatto coming out. Però devo dire questa cosa è molto importante, molto importante quello che dice Emilio Fede. Io guadagno, dice Fede, scoop mondiale della Zanzara. Sì. 20.000 euro al mese netti. Tutta l'Italia voleva sapere lo stipendio mensile di Emilio Fede. Emilio Fede guadagna quanto? Ripetilo a voce alta. 20.000 euro mese, ma è un'azienda privata e vabbè, questo lo sappiamo, insomma. No, ma è giusto ripetirlo perché però vedo già anche se sono nel Granducato, vedo già i messaggi, le mail. Beh, ti leggo subito una cosa: siete due vergognosi servi di Berlusconi, la vergogna dell'Italia. Cruciani, ma perché Fede è ancora libero, non è ancora in galera? Un simpatico, simpatico signore che si chiama Angelo da Torino. E poi un altro ancora. Perché si mette in galera in genere quando viene condannata o quando c'è pericolo di fuga, inquinamento delle prove e quant'altro. Non prima, amico mio, ma io non lo so. Poi dite a Fede che io sono un professore universitario primario di un reparto di chirurgia e guadagno 3.900 euro al mese, non mi lamento perché il signor Fede diceva mia moglie guadagna 5.000 euro al mese e sono troppo pochi e non guadagna tanto. Questa è stata l'unica cosa su cui, comunque. Secondo me è un po' discutibile, per il resto mi sembra. Questo è un po' discutibile, dai, 5.000 euro al mese non sono molto, pochi. Molto discutibile. Dunque no, diciamolo allora, no, che Fede ha detto anche nessun altro direttore su questa cosa qui fa coming out come faccio io, come ho fatto io questa sera. Dunque direi anche, facciamo un appello a questo punto, che gli altri confessino o no? Confessate i vostri salari. Cari direttori, confessate direttori, i vostri salari. Qualcuno, cari direttori, qualcuno l'ha fatto, Mentana l'ha fatto per esempio. Mentana è numero uno. Vabbè, adesso c'è un conflitto, ragazzi, un conflitto di interesse. È una constatazione. Però. Cioè, l'ha fatto, ha detto all'inizio quant'era il contratto e quant'erano poi gli aumenti in caso di ascolti, eccetera, eccetera. Numero uno, ci vuole più America, più mercato. Ma quanto guadagna Minzolini? Ecco, su Minzolini invece bisognerebbe aprire un capitolo particolare. Perché? Non me lo toccare, è stato qui ospite alla Zanzara, ci ha dato. Lì, lo so. Lì dovrebbe essere obbligatorio, perché parliamo di pubblico. Lì parliamo di pubblico e quindi gli stipendi del pubblico dovrebbero essere resi obbligatori. Lì poi c'è qualche problemino, magari anche no, sulle carte di credito, ma questo vabbè, questo lo dirà qualcun altro. Antonio da Roma, Antonio da Roma, fammi sentire Antonio. Meglio. Salve, buonasera a ambe due. Io volevo rispondere al signor Orazio. A chi, scusi? Al signor Orazio che voleva, era il signore di Napoli che voleva, il siciliano che voleva dividere l'Italia. Volevo dirgli che sono 150 anni che siamo uniti, se in 150 anni ancora non sono riusciti a tirarsi su, voglio dire, da questo scippo fantomatico che il Nord gli ha fatto, loro credono che dividendosi e levando tutti gli aiuti che ovviamente gli Nord e Centro danno al Sud, credono di ritirarsi su, non credo proprio, non riescano a fare una discarica in un posto che non si sa questa immondizia chi la deve prendere. Pensiamo se riusciamo a, se dividono di nuovo l'Italia, se loro riescano a avere questo rampolino di lancio, ma non riesco a capirlo. Bene, grazie Federico. Grazie. Da Milano, buonasera signor Federico. Buonasera signore, è un po' troppo grosso, io sono giovane. Vabbè, sempre anni. Un signore, non è mica una signora, abbia pazienza. No, sono un signore, sì, però faccio parte dei precari, quindi della parte peggiore del paese. Ma i precari, come lei sa, io penso che non esistano. Ah sì? Attenzione. La mia teoria ormai direi che ha una teoria di caratura mondiale, diciamo, di spessore mondiale, direi. Sì. Sì, vabbè, se lo pensa lei, io invece purtroppo devo constatare amaramente che esistono persone che lavorano e persone che non lavorano. Quando uno dice sono precario, significa che c'è una situazione di precarietà che ci può essere in tante cose nella vita, non è che c'è solamente nella. No, ma io infatti lavoro. Non ho detto che non lavoro, io ho detto che lavoro, ma sono in una situazione precaria di lavoro. Benissimo, perché per lei naturalmente l'alternativa è o lavoro a tempo determinato o lavoro a tempo indeterminato. Immagino che lei lavori a tempo determinato, o sbaglio? Determinatissimo. Determinata, benissimo. Esatto. E vorrebbe lavorare invece a tempo indeterminato, giusto? No, vorrei sì. Quello ormai è il sogno per la mia generazione. Guardi, sa cosa le dico. Perché, lei è il sogno del lavoro a tempo indeterminato, cioè del posto fisso? Perché ha questo sogno? Perché per comprarmi una casa e per andare in una banca e ricevere un mutuo devo avere un contratto a tempo indeterminato, se proprio vuole che glielo dica fuori dai denti. Sì, per cui io posso anche essere d'accordo con la sua teoria. Il problema è che se non mi si prospetta un futuro concreto da qua ai prossimi 3 anni, mi spiace, possiamo poi discutere filosoficamente sulle tipologie di contratto, ma la casa non me la danno. Dipende naturalmente che tipo di lavoro uno fa, perché alcune volte lavorare a tempo determinato è più conveniente che lavorare a tempo indeterminato. Sì, però comunque, sono casi rari. Lei sono che lavoro rari. Fa? Io sono un collega, guardi, sono un giornalista. Beh, i giornalisti certo è molto complicato lavorare molto a tempo difficile. Lavorare sono a tempo pubblicista, determinato. Sono ancora pubblicista, mettiamo i puntini sulle. E già vuole lavoro a tempo indeterminato. Cioè, no, tempo. No, ma ci sono tanti colleghi che sono sparsi. Anche Parenzo a tempo determinato, Io sono io ho lasciato, figurati, io sono caro collega, io sono un pazzo scatenato perché ho lasciato il tempo indeterminato per fare il precario. Certo, sono un precario che non si può lamentare. Un precario perché, di lusso, diciamo, no? Mandare via in qualsiasi momento, questo non c'è dubbio. Ma per carità, il mondo guardi, è fatto di chi. Ma io lavorerei tutta la vita partita IVA se avessi una situazione, però hai comunque quanto meno stabile. Cioè, esatto, ma hai ragione, ma infatti questo è un problema vero, è Cruciani che non lo vuol capire anche per questioni che. No, ma io no, ma guardi, capire, il problema vero poi sa qual per è. Per me dovrebbero essere tutti precari, figurati un po'. Sì, ma il problema vero poi sa qual è. È che io accendo la televisione la domenica e vedo che un ministro della Repubblica. Non sto facendo demagogia, guardate che è vero, un ministro della Repubblica che chiama e inneggia alla secessione e spara a zero. Vabbè, questo che c'entra con il precariato, scusi. No, perché non c'entra nulla, Però comunque, se lei vuole attaccare Maroni va bene, ma che un precariato e Maroni non c'entra niente. Le giuro, non è demagogia, lei ha capito benissimo quello che voglio dire. No, non ho capito, per me va benissimo. Perché se l'agenda del giorno è... trasferiamo i ministeri al nord e parliamo di tutte queste cose che sono aria fritta. Sì, in questo senso sì. A lungo termine, la situazione degenera. Vabbè, degenera che vuol dire? Cioè, non l'agenda del giorno. L'agenda di due giorni, di due giorni dell'informazione. Si occupa dei problemi della gente concreti e si parla di queste cose. Qua la gente a lungo andare si stufa. Questo deve essere chiaro. Sì, ma guardi, io sento fare questo. Io vorrei sentir parlare di cose concrete. Io di sento fare di contratti di lavoro rivisti. Sì. Vorrei sentir parlare di queste cose. E allora perché la sinistra non accetta quello che propone e la fa diventare una cosa seria, una proposta concreta sul tavolo, sul tappeto, la proposta del senatore Ichino? La sinistra lo sta già facendo, se proprio lo vuole sapere, perché io ho letto per esempio il programma di Pisapia, che non è uno sconosciuto, ha vinto. Ma Pisapia mica deve dare lavoro, fa il sindaco di Milano, mica deve cambiare i contratti di lavoro. Abbia pazienza. No, certo, ho capito, però ha nel suo programma delle idee precise sul lavoro e sulla crescita del lavoro. Ho capito, ma non si può, il sindaco non produce lavoro a Milano, né a Roma, è difficile. No, infatti la mia critica è a livello nazionale, qualcuno mi propongo una ridiscussione delle modalità e delle tipologie di contratti che si fanno. Allora ha ragione Cruciani. Avrà la mia attenzione, finché devo ascoltare una persona che urla, strilla. Guardi, il ministro Maroni è un ottimo ministro degli interni, questa è la realtà. A detta di molti, ma io non parlo detta di molti, anche a detta dell'opposizione. Ma io per non cui... parlo di Maroni, infatti. No, beh, lei ha parlato di Maroni che strepitava e urlava sulla secessione. Ah, sì, tutti. Sì, sì, no, ma mi riferivo a Bossi. A Bossi. Bene, traffico, grazie, signor Federico. Prego, prego, salve. Eccoci, Parenzo, tu non ci sei qui e mi sono dovuto prendere un tuo succedaneo, come dire. Mi dispiace, cosa c'è? Una mia effigie, cosa c'è? No, la tua effigie no, c'è un noto conduttore di Radio 24, perché tu alle 9 cosa fai, scusami, eh? Alle 9? Adesso, quando chiudiamo la trasmissione, cosa fai? Cosa faccio? Farò un bunga bunga, non lo so. No, stasera stai con tua figlia, con tua moglie, sei tranquillo a sera. Allora, io ti consiglierei di lasciare la radio, adesso non dico accesa come... come se fosse la Zanzara, come se fosse un'altra trasmissione, perché no, ma capisco che alle 9 no, no, capisco alle... però se lasci acceso alle 9 che succede? Federico Taddia, eccoci qua, ciao ciao. Allora? Ciao. Allora domani mattina iniziano gli esami di maturità e questa sera faremo una lunga diretta la notte prima degli esami con protagonisti pazzeschi. Elencaci qualcuno dei protagonisti che interverranno a raccontare, immagini, i loro esami. Sì, i loro esami, poi il Tototraccia che è un po' il tormentone della serata, quindi andremo a tentare di indovinare tutti quale sarà il titolo. Quelli che fanno l'esame non devono dormire questa sera, devono collegarsi con Radio 24 fino a che ora vai in onda? Fino a mezzanotte. Ma comunque, scusa, ma non devono dormire? No, no, è un falso mito. Qui si organizzano feste questa sera. Abbiamo collegamento con maturandi che sono in spiaggia a fare la festa in attesa del tema di domani magari mattina. Magari bevono pure, no? Ma questo non lo so, ma immagino ubriachi domani mattina. Una cosa, trasmissione molesta per i laureandi, i maturandi. Allora, chi interviene? Interviene Giovanotti, che pure le danze, poi? Gene Gnocchi. Ci sarà Serena Dandini, ci sarà Michela Murgia, ci sarà Alex Britti che ha fatto la colonna sonora di Immaturi e un sacco di altri ospiti. Ci divertiremo. Ma è geniale questa, mi dispiace non averla avuta io, ma è un'idea geniale. Renzo Arbore, Daniele Silvestri, Geppi Cucciari, Massimo Gravellini, Antonio Cornacchione. Insomma, è un bel parterre di un sacco di gente che non ha fatto la maturità. Come, tra questi? Cioè tra VIP vari, con personaggi conosciuti che non hanno, come, non hanno manco fatto la maturità. No. Ma com'è possibile? Questa sera ci spiegheranno anche il perché. Dimmene uno. Svelaci. Cioè, ci sono persone affermate nel mondo della cultura, dello spettacolo, cioè, che non hanno fatto la maturità. Ci sono. Cioè, hanno la terza media, che c'è? No, sì, oppure durante la... Che viene prima? Sì, no. C'è la terza media. Facci un nome, dacci un'anticipazione clamorosa, ti prego, in esclusiva per noi. Un'anticipazione di quello che poi ascolteremo fino a mezzanotte. Ti prego, un nome, facci un nome. C'è tipo uno che non ha voluto intervenire perché ha detto io mi vergogno, lo possiamo dire o questo? Sì, lo possiamo dire. Panariello non ha la maturità. Vengo. Io non vengo, ma sono tanti. Perché sono non tanti. Ho la maturità. Sì, ma non significa, diciamo la verità, no, non significa nulla. Non significa ma anche chi se ne frega, infatti. Sì, non è che uno è obbligato ad avere la maturità nella vita. Cioè, se uno poi nella vita ha fatto strada, tra l'altro, si è affermato in un mondo, quello dello spettacolo, dove non è necessario avere i galloni qui, non c'è niente ma di male. Perché Leonardo da Vinci, secondo te, ha fatto la maturità? Adesso, Leonardo da Vinci, non lo so, magari sì. Cioè, all'epoca non esisteva. Ma non esisteva la maturità all'epoca. C'era un altro. Michelangelo ha fatto la maturità. Okay, però il paragone tra Michelangelo e Leonardo mi sembra è la Toscana un tantinello blasfemo. Vabbè, grazie. No, ma che Dante ha fatto la maturità, ma che dite? Vabbè, Dante ha fatto la maturità. Non lo so all'epoca che c'era, com'era strutturata la scuola, non me lo ricordo, mi andrò a informare. Devi sapere che Federico Taddia, oltre ad essere un conduttore radiofonico, è un bravissimo autore radiofonico, televisivo, eccetera eccetera. E vabbè, niente, te lo volevo dire se non lo sapevi. Sì, no, lo sa Parenzo? Non lo so, però ti dico che magari Crosta questa sera farà una sorpresa. Ah, io magari non lo volevo dire, non so se tu lo dici urbi e torbi. Una sorpresa. Cioè, sai le battute che fa Crozza Ballarò nei suoi spettacoli? Sono solo di Taddia. C'è una squadra di cui Taddia fa parte. Cioè, non è che è uno qualunque così che arriva alle 9 e fa un programma sugli esami. Cioè, è uno che tutte le cose di Crozza, uno dice sono di Crozza. No, sbaglio. Alcune sono di Taddia. No, ma alcune sono di Taddia, altre sono di autori. Crozza che fa niente. Tante sono di Crozza. Si lavora insieme. Grazie a voi. Taddia alle 21, ciao. Quando finite la Zanzara, non mollate come fate di solito, perché normalmente è così, perché basta vedere la curva degli ascolti e poi restate come lotta, Cruciani, come lotta. La notte, che vuoi, che ridi? La notte prima degli esami. La maturità tu. Io ho preso la maturità, beh, non me lo chiedi, non mi ricordo, lo sai, no, 60 io sicuramente. La maturità classica. sicuramente è stata, però non posso dire con certezza, perché magari poi qualcuno va a controllare come la Sant'Anchè sul master. Cruciani ha mentito, ha preso 60, non mi ricordo, credo, può darsi pure che ho preso 56 57, ma devo dirti francamente non me lo ricordo. Mi ricordo che fu una cosa vergognosa, 42. Perché scelsi la materia più facile che c'era, perché non volevo fare nulla. Ma è stato il classico anche tu? Sì, il classico, naturalmente. È uscito Storia dell'arte, ancora me lo ricordo, Storia dell'arte, una cosa che non ho mai studiato in vita mia, mai aperto un libro, però siccome era un libro, era solamente un testo da fare, una cosa vergognosa. Allora scelsi Storia dell'arte all'esame, una cosa pazzesca, cioè non mi è mai fregato niente, scelsi così perché era più comodo e più semplice, capito? Per cui ho fatto, mi ricordo che fece l'esame di greco, fu terribile l'esame di greco, terribile. Vabbè. Lo ricordo ancora come un incubo, però bella trasmissione questa qui. Quale? Anche quella che viene dopo. Ma no, che ne sai, manco la sentita ancora, già. No, bella. Ma ho già capito il taglio, mi pare ottimo. Bene. Va bene, grazie. Avanti. Grazie a Federico Tania. Dove siamo? Michelino da Milano, per chiudere, veloce Michelino. Buonasera, volevo semplicemente censurare il vostro intervento di difensiva sulle remora di quello che ha detto Emilio Fede. Non si può giustificare difensiva. Quale difensiva? Scusi, non ho capito. Mica abbiamo fatto la difesa né di Avete censurato, avete quasi giustificato un personaggio che ha fatto una bancarotta. Ma chi l'ha giustificato? È stato arrestato per bancarotta. Abbiamo chiesto a Fede che sensazione provava in questo momento. Fai riascoltare quello che ho detto io di Lele Mora. Fallo riascoltare. Altro che censurato. Non l'ho sentito. Allora chiedo scusa. No, Michelino, ci sentiamo domani, così chiariamo questa cosa. Perfetto. Grazie. Un saluto a tutti. Ci sentiamo con la Zanzara domani 18:30. Viva gli esami di maturità. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa, non mi preoccupare. Radio 24, la passione si sente.